9 in punto. Buongiorno, buongiorno ancora da Gianfranco Fabi. Anche quella di oggi si prospetta come una giornata di forte tensione sui mercati finanziari. Le prime notizie non sono certo positive. Tokyo ha chiuso in negativo con un -2,11% e Milano, così come le altre borse europee, ha aperto negativamente con un indice MIB che è sceso, sta scendendo dell'1,25%. Nello stesso tempo anche sui titoli di Stato si sta riconcentrando la attenzione. Lo spread, la differenziale tra i BTP italiani e i bond tedeschi è salito a un livello record, quasi 400 punti, per l'esattezza 390 punti, ed è un livello che sta salendo anche per altri paesi. Questo può farci consolare almeno un po'. Lo spread sui titoli di Stato spagnoli è a 407 punti e anche quello della Francia è certamente più basso, a 78 punti, comunque significativo. Questo vuol dire che si stanno concentrando gli acquisti verso i titoli più sicuri, che vengono considerati ormai solo i bund tedeschi, e anche gli Stati Uniti, come abbiamo visto negli ultimi giorni, hanno qualche difficoltà sul fronte finanziario, e anche l'accordo ratificato dalla Camera, dal Congresso, e firmato dal Presidente Obama sembra non avere tranquillizzato i mercati, tanto che l'agenzia di rating cinese ha abbassato il rating americano. Non così hanno fatto almeno per ora le agenzie americane, forse per spirito di patria. Un'ultima notizia: anche l'oro è arrivato a un record, 1662,79 dollari per oncia, un livello a cui non si era mai arrivati, ma alcuni esperti non escludono che si possa arrivare per l'oro anche a quota 2000. Quindi sono momenti di grande tensione sui mercati, grandi incertezze anche sulle strategie dei paesi. Tra l'altro questo pomeriggio in Parlamento parlerà il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, attesa dal suo discorso con qualche elemento che potrà dare di volontà del governo di attuare nuove misure soprattutto per rafforzare la crescita, che è il vero problema italiano. Ma oggi stiamo sul tema dei titoli pubblici, del debito pubblico, su cosa vuol dire questo per i risparmiatori. Non vogliamo fare la concorrenza a Deborah Rosciani con il suo salvadanaio a mezzogiorno, ma anche sotto un profilo proprio di possibilità di manovra, di possibilità di intervento e di prospettive dal punto di vista economico, finanziario e anche politico, che appunto i risparmiatori devono tenere presente per fare le loro scelte, cercando di evitare quello che è sempre una cosa negativa, che è il panico, che porta sempre a scelte spesso irrazionali. Io vi ricordo il numero verde 800 24 0024 per le vostre telefonate, e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Vi presento gli ospiti di oggi. Professor Giacomo Vaciago, buongiorno Vaciago. Buongiorno a tutti. Docente di politica economica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, un attento osservatore critico dell'evoluzione dell'economia italiana. Marco Riera, buongiorno Riera. Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie caro Marco, fondatore di YouInvest, una nuova società che ha proprio come scopo quello di portare a conoscenza degli elementi della finanza e del risparmio in maniera più larga possibile, collaboratore anch'esso del Sole 24 Ore, con i suoi consigli ai risparmiatori del Supplemento Plus. E Alessandro Barbera, buongiorno Barbera. Buongiorno a voi. Giornalista economico della Stampa. Allora inizierei da Giacomo Vaciago, professor Vaciago. In sintesi, la situazione è grave ma non seria, o seria ma non grave? Tutte e due. È grave e seria. Attenzione, in settimana è il quarto anniversario dell'inizio di questa crisi, agosto 2007. La crisi inizia dopo un decennio di eccessivo autocompiacimento. Se rileggo adesso cosa dicevano i banchieri centrali, Greenspan, Bernanke, Trichet, non Draghi, che è sempre stato un po' più attento ai fatti reali, ma diciamo cosa dicevano a metà, 10 anni fa, a metà anni 2000, a metà anni 2000, non è 10 anni fa, sì, è 6 anni fa. Sei anni fa. Cosa dicevano dell'economia, dell'assenza di inflazione, della crescita, andava tutto bene. Beh, adesso è l'opposto, adesso va tutto male, non era vero allora, non è vero neanche adesso, non è vero che va tutto male oggi al mondo o in Italia, è enormemente aumentata la varianza, c'è chi non è mai andato così bene come adesso, pensiamo che India, Cina, Brasile stanno alzando i tassi di interesse per moderare una crescita eccessiva. E quello è gran parte del mondo, è il futuro, sono i paesi emergenti. Lì va tutto bene, anzi fin troppo. Noi, vecchio continente europeo e il nostro erede, gli Stati Uniti, negli anni di euforia abbiamo fatto troppi debiti e adesso li dobbiamo pagare. O li paghi con la crescita o li paghi con lacrime e sangue. Quando ieri mi chiedevano che alternative ha l'Italia, imitare la Grecia o la Germania? Beh, io non ho dubbi su cosa è meglio fare, però attenzione che anche la Germania non gliel'ha regalata a nessuno la crescita di questi due anni, se l'è tutta meritata col sudore dei suoi operai e dei suoi imprenditori, con un governo amico, che fosse di sinistra o di destra non importa, Schröder prima e la Merkel poi hanno aiutato le imprese tedesche e i loro lavoratori a tornare a crescere. Ecco, c'è stata in Germania, ricordiamolo Vacciago, una grande unità nazionale per un certo periodo, sia a livello politico sia a livello anche sindacale, un'unità di intenti tra le parti politiche con il governo di grande coalizione, sia con i sindacati che hanno assecondato una politica di addirittura in alcuni casi di riduzioni salariali o un aumento di ore di lavoro a cui non corrispondeva un aumento del salario. Quindi c'è stato prima appunto prima della crisi, in una certa preveggenza, anche la capacità tedesca di portare avanti una politica economica che desse competitività alle imprese. Perché solo la Germania, Vacciago? Beh, perché è un paese lungimirante, come tu giustamente dicevi. 10 anni fa il Max Planck Institute, 80 istituti di ricerca, fa una scoperta: la Germania è un paese a demografia negativa, quindi i migliori tedeschi non bastano più, decidono di adottare l'inglese e di dare borse di studio ai migliori del mondo. Noi siamo anche noi a demografia negativa da 10 anni, cosa aspettiamo a capirlo? Che con un paese a demografia negativa il futuro te lo devi meritare. E questo è il grande problema, costruire il futuro, avere la capacità di pensare, diciamo, al bene comune. E questo la politica in Italia forse qualche pecca l'ha avuta, Vacciago. Purtroppo sì, perché la politica in Italia imita i mercati finanziari. Basta arrivare a lunedì. I mercati finanziari da sempre soffrono di miopia. Poi ci vogliono i governi che danno lungimiranza. I governi durano 5 anni, non durano un giorno, e se si succedono nel tempo con continuità di valori, a quel punto tira sorte se voti destra o sinistra, cambia poco, cambiano alcuni strumenti, ma non gli obiettivi del paese. Allora, noi purtroppo la politica è ciò che ci divide, e quindi per definizione anche oggi molta gente dice: quello che conta è cambiare il governo. Dice: per far cosa? Non importa, basta cambiare il governo. E secondo me no, secondo me sarebbe necessaria una scelta condivisa e almeno la diagnosi. Io da tempo dico: non è possibile che le diagnosi sul paese non siano condivise dalla sua classe dirigente, che ha una dimensione politica e ha una dimensione più generale. Attenzione, le nostre migliori imprese, è vero, da 10 anni, crescono ovunque meno che qui. Beh, ci sarà da ragionare su questo. I primi messaggi SMS comunque dicono che è la politica deve fare il primo passo, deve fare un passo, e alcuni dicono: faccia un passo indietro, il governo dovrebbe lasciare spazio ad altre politiche, ad altre forze, visto che fino adesso non è riuscito ad evitare questa crisi, una crisi che, stando almeno ai dati istantanei, sembra essere ancora forte, e la borsa di Milano scivola oltre il 2%, alcuni titoli, soprattutto i bancari, Intesa San Paolo e Banco Popolare sono sospesi, Fiat perde oltre il 3% e Unicredit perde l'1,86%. Quindi c'è sui mercati ancora una giornata di tensione. Alessandro Barbera, è una tensione che possiamo considerare strutturale ormai, di cui ormai non si può vedere la fine, oppure c'è tra l'altro molti dicono un'ondata speculativa molto momentanea che cerca di approfittare di un momento di difficoltà. Barbera. Beh, fino alla firma dell'accordo negli Stati Uniti sul debito americano si poteva sperare che fosse una cosa momentanea. A questo punto la situazione si fa più preoccupante, perché diciamo quell'elemento, quell'alibi per la speculazione è venuto meno, ora ci troviamo da soli di fronte ai nostri problemi. Temo che ciò che stiamo pagando sui mercati, al di là del fatto che è agosto e quindi con pochi scambi si possono fare grandi disastri, credo che stiamo pagando, noi europei, l'Europa sta pagando anzitutto la mancanza di una strategia coerente. A proposito di lungimiranza, i tedeschi lo sono molto in casa, lo sono poco in Europa, perché è vero che noi abbiamo le nostre colpe e sono molte, è altrettanto vero che un buon 60% di questa crisi nella quale siamo finiti dentro è una crisi che riguarda l'Europa, riguarda la mancata risposta, una mancata risposta vera, rapida, tardiva alla vicenda greca, e il risultato è che, come dicevi giustamente tu prima, tutti gli spread dei grandi paesi europei cominciano a essere un po' sotto attacco. Ora, il punto è che cosa può fare il governo. Certamente il governo oggi, Berlusconi, qualcosa può fare, c'è da sperare solo che non sia troppo tardi. Certamente da parte nostra è mancata lungimiranza ed è mancata anche la capacità di comprendere che al di là dei meri numeri che l'Europa ci imponeva c'era da costruire anche una strategia della crescita, che oggi non c'è, perché oggi i mercati chiedono alle grandi democrazie occidentali rigore nei conti pubblici, perché hanno tanti debiti, ma anche la capacità di crescere. È un difficile equilibrio, ma va trovato. Noi ci siamo troppo sbilanciati su un lato, questo è certamente una responsabilità del Ministro dell'Economia, che ci ha creduto molto poco, e non è un caso che oggi Berlusconi andrà in Parlamento puntando tutto su questo, cioè su come creare più crescita. Si è miracolosamente sbloccato dopo un anno, quasi un anno di lavoro, il piano per il Sud, quindi il riorientamento di fondi FAS che, ricordo, sono disponibili dal 2007, sono nel cassetto dell'economia dal 2007, e che adesso, dopo un lungo lavoro di mediazione, sono risorse che verranno distribuite per alcune opere, e in questo bisogna dare atto al governo, finalmente non inutili, quindi strade, autostrade, porti e non piazze o giardini, e poi la riforma del mercato del lavoro, che secondo me è il nostro vero grande handicap. Non abbiamo voluto affrontare fino in fondo la questione. Io sono fra quelli che è convinto che il problema dell'Italia sia mettere mano anche all'articolo 18, l'illicenziabilità assoluta. Io sono convinto che sia un freno a un mercato del lavoro più dinamico. C'è da sperare che il discorso di Berlusconi possa fare qualcosa, possa risolvere in qualche modo, possa mettere un argine a questa speculazione, la cui fine, per la verità, io non riesco a vedere quando dovrebbe arrivare, potrebbe arrivare, se non nella speranza che nelle curve degli operatori arrivi a un punto oltre il quale il valore delle banche italiane, piuttosto che non delle grandi aziende, non sia così basso da consigliare di tornare a comprare. Ecco, perché c'è un rischio peraltro anche che a questi prezzi, a questo valore delle banche, qualcuno dice che le banche in borsa valgono meno dei soldi che posseggono, quindi potrebbe essere un affare comprarle. Se a questi prezzi ci possa essere anche qualche incursione da parte estera, visto che i fondamentali italiani sono comunque positivi, soprattutto sul fronte bancario, ma anche sul fronte delle imprese. È un paese che non cresce, ma resta un paese forte, un paese che è una delle grandi potenze industriali, e appunto non si cresce, ma la stabilità è comunque qualcosa di positivo, non si va nemmeno indietro. E allora, Barbera, c'è anche un rischio di un'offensiva estera sull'Italia? AMC è molto concreta e temo che sia la cosa che dobbiamo, della quale ci dobbiamo preoccupare più ancora dell'andamento degli spread. Ho la sensazione che ad esempio in Germania ci sia più di un ambiente che vorrebbe riprendersi in mano quella HVB che Monicredit si mangiò in un sol boccone 3 anni fa. E temo che altrettanto possa succedere da parte di altri paesi europei, non dimentichiamo le mire francesi su alcune grandi aziende italiane. È il vero rischio di fronte al quale ci troviamo e non è da escludere che qualcuno ci scommetta, e questo è il punto sul quale io credo che la politica dovrebbe essere capace di fare delle scelte condivise, capire, e ha perfettamente ragione Vaciago, che il punto non è dire bisogna cambiare. Certo, è vero che questo governo ha fallito su molti fronti, ma non è certo andando a elezioni oggi o dichiarando che andremo a elezioni oggi che risolviamo i nostri problemi. Bisogna avere una strategia, e credo che questo è uno di quei momenti, di quei rari momenti in cui bisognerebbe avere la buona creanza di stringersi attorno ad alcuni obiettivi condivisi e cercare di raggiungerli. Certamente c'è da tentare di dare alla politica del governo una strategia coerente, e c'è certamente da stringersi attorno alle grandi aziende italiane che diversamente rischiano di finire tutte in mani straniere. Certo, ecco, per fare un accordo anche a livello politico comunque bisogna essere in due, ci vuole una parte che apre e l'altra che accoglie. Per adesso sembra che i segnali si siano molto limitati di una possibilità di un'intesa. C'è stata per varare in fretta la manovra economica, peraltro non condivisa dall'opposizione, ma al di là poi non si è andati. Intanto i dati, diciamo, istantanei delle borse valori confermano quanto dicevamo prima: c'è una crisi generalizzata. Francoforte perde l'1,16%, Londra l'1,47%, Parigi l'1,16%, ma l'Italia ha una crisi ancora superiore, come ho detto, perde più del 2%. Quindi c'è una crisi finanziaria internazionale, c'è una crisi americana, una crisi europea. L'Italia fa parte di questa crisi, ma ci aggiunge qualcosa in più. Prima di concludere la prima parte con Marco Liera, ci sono già molte domande anche concrete su cosa fare sui titoli, però prima vorrei chiedere a Marco se il panico è sempre da evitare, non è una situazione da panico per i risparmiatori. Marco Liera. Sì, è una situazione preoccupante, perché chi ha titoli di Stato vede una svalutazione su una parte del proprio portafoglio, anche se ricordiamo che i titoli di Stato italiani sono di proprietà in gran parte di investitori internazionali, ed è probabilmente da quella parte che stanno arrivando le vendite. Le famiglie italiane detengono circa il 10% del debito pubblico italiano, quindi non hanno un'esposizione così elevata nei confronti del rischio Italia inteso come rischio sovrano. Certamente ci sono anche investitori che detengono azioni di banche italiane, e anche lì c'è sofferenza in corso. E in questo momento, per chi ha una eccessiva concentrazione di rischi nei confronti del nostro paese, non è il caso di fare mosse azzardate. Bisogna non fare adesso cose che magari dovevano essere fatte in passato, magari una diversificazione internazionale più accentuata. Probabilmente chi ha avuto una buona consulenza negli anni passati ha potuto anche costruirsi un portafoglio un po' più diversificato. C'è poi una quota di risparmiatori tutt'altro che rilevante, che anche buoni postali, che in questo momento sono considerati chiaramente dei titoli tranquilli e semplici perché non hanno un prezzo, ma ricordiamoci che anche per quanto riguarda i buoni postali esiste un garante di ultima istanza che è lo Stato italiano. Ecco, quindi non c'è, diciamo, questo bisogna dirlo chiaramente, un rischio di default, di fallimento per lo Stato italiano. E anche il fatto che i titoli di Stato diminuiscano di prezzo perché aumentano i tassi di interesse vuol dire che comunque che a scadenza questi titoli verranno ripagati al 100%, Marco Liera. Sì, questo sì, perché da qui a scadenza però potrebbero succedere anche ulteriori problemi, potrebbero emergere ulteriori problemi. Di fatto la crisi non è finita qui, qui si tratta di introdurre anche misure da un lato europee molto immediate, perché le risposte che ha dato l'Europa sono un po' troppo lente in relazione alla rapidità della crisi, perché la crisi corre al ritmo di 50 punti base a seduta, quindi credo che la soluzione sia quella di trasformare il Fondo di Stabilità Europeo in una specie di Ministero del Tesoro Europeo in grado di emettere Eurobond in misura sufficiente a coprire debiti di paesi di piccole dimensioni come Grecia, Portogallo e Irlanda e anche una buona parte del debito pubblico di Spagna e Italia. Questo ancora non è accaduto ed è una risposta che una parte del mercato si attende, altrimenti continua a picchiare sui titoli di Stato dei paesi periferici. In più, dal punto di vista dell'Italia, il mio pensiero va a quello che accade nell'estate del 92, una fase ancora più tormentata forse di quella attuale sotto certi punti di vista. Ti ricorderai, Gianfranco, eravamo insieme nella redazione del Sole 24 Ore quell'estate molto movimentata, e la misura che quel governo, il governo Amato, introdusse per almeno parzialmente calmare i mercati fu un'imposta patrimoniale, che è una parola odiatissima, che è una parola ovviamente che la maggior parte degli italiani non si vuole sentire nominare. D'altra parte è una classica misura straordinaria che può testimoniare la serietà di un governo a mettere mano al problema del debito. In sé poi la patrimoniale non è del tutto illogica, perché il debito pubblico italiano nei decenni passati non è che è stato che è finito tutto nelle tasche di politici corrotti o in sprechi inefficienze, ma è finita anche nelle tasche di milioni di famiglie italiane. Poi sappiamo che la patrimoniale sarebbe una tassa estremamente iniqua, perché appunto va a colpire in modo indifferenziato indipendentemente dalla capacità reddituale, e sappiamo anche che con certezza gli unici che scriverebbero un'imposta del genere sarebbero gli italiani che hanno i capitali in nero all'estero e che non hanno approfittato degli scudi fiscali. Però ciò detto, una misura del genere potrebbe rappresentare un modo per calmare i mercati. Il problema è che, a differenza del governo Amato del 1992, che te lo ricorderai era una specie di governo di unità nazionale nato sulle macerie di Tangentopoli, beh, questo governo non mi pare che abbia la credibilità per imporre una misura del genere. Beh, indubbiamente una tassa di questo tipo potrebbe essere giustificabile dal punto di vista tecnico, ma dal profilo politico potrebbe essere potrebbe avere l'iniziativa solo un governo proprio di unità nazionale che chiamasse un po' tutti alle proprie responsabilità e tutti si assumessero le proprie responsabilità. Già adesso appena si è farla di patrimoniale ci sono state sia all'interno delle singole, dei singoli partiti, sia appunto tra i diversi partiti delle opposizioni molto nette. Siamo in fondo quasi in clima preelettorale, non è certo il clima con cui qualcuno può imporre qualcosa di impopolare. Il problema però è proprio quello, che in questa fase ci sarebbe bisogno di misure significative ma condivise da tutte le forze politiche, condivise da tutte le parti sociali che stanno avendo un ruolo da protagonista. Vedranno peraltro domani il Presidente del Consiglio, proprio per cercare attraverso il consenso complessivo di ricostruire quella fiducia che è indispensabile per la ripresa economica. Il punto fondamentale è proprio ritrovare la fiducia, e può essere ritrovata solo con un consenso complessivo al di là delle logiche di lotta politica. Bentornati da Gianfranco Fabi. Vi leggo subito un messaggio: ma come, siete diventati favorevoli alla patrimoniale? No, non ho detto questo. Nella ultima parte del programma ho detto che misure, interventi importanti, urgenti, che possono essere concordati, devono essere concordati a livello generale tra maggioranza e opposizione in un clima di unità nazionale. In questa fase ci vogliono interventi sia sul fronte delle tasse, ma soprattutto sul fronte dei tagli di spesa. Qui posso parlare per esempio di abolizione delle province, posso parlare di riduzione del numero dei parlamentari, posso parlare di tante altre cose. Su questi fronti, per interventi importanti che segnino appunto una discontinuità con il passato, ci vuole un'unità delle forze politiche, ci vuole un senso di solidarietà complessiva, e solo così possono essere approvate, varate e a raccogliere anche il consenso dei cittadini, che devono appunto pensare che la politica fa delle mosse, dei passi nell'interesse comune e non nell'interesse dei singoli politici. Questo è il problema di fondo in questa fase, secondo me, almeno. Poi ovviamente ognuno può essere del suo parere anche diverso. Sentiamo Mirko da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Bene? Ci dica. Sì, le volevo chiedere, cioè, a parte che le banche, i titoli azionari valgono meno dei soldi che hanno, ma i soldi non sono loro, cioè, dobbiamo anche specificare quello, e poi mi risponde anche su questo discorso. Però volevo anche far capire una cosa: dovremmo anche pensare che c'è metà delle teorie economiche possono anche essere sbagliate. I titoli di Stato possiamo anche considerarli anche uno schema punti, cioè non si può chiedere continuamente di rifinanziare un debito anche se si cresce, perché la crescita non è infinita, non è tante. Dobbiamo pensare che ci possono essere delle pause di riflessione. Cioè, uno Stato che non capisce questo, è giusto che in questi giorni possa essere affossato, possiamo anche vederlo in maniera positiva, perché si può anche ripartire da zero, ed è l'unico modo per farlo, perché è 10 anni, 20 anni che si parla ma non si fa mai niente. Grazie, grazie Mirko, indubbiamente. Prego. Quando si parla del valore delle banche non si parla del valore dei soldi che le banche possiedono, che sono affidati dai risparmiatori, si parla del valore delle banche che hanno un valore patrimoniale come immobili, come strutture, come avviamento, come capacità di reddito complessiva, al di là appunto dei soldi che posseggono, che non sono ovviamente loro, ma in parte sono anche loro, perché anche loro hanno un patrimonio. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io non sono un economista, ci capisco assai poco, e ho fatto quello che forse hanno fatto molti italiani, cioè non giocando in borsa, non investendo in fondi o chissà chi altro, ho dei soldi su un conto corrente bancario che non è speculativo perché è allo 00 ormai, ma sono i soldi della nostra vita tesi ad acquistare la casa della nostra vita da qui a un tempo relativamente breve. Girano continuamente voci, anche ieri addirittura sul mio posto di lavoro, che occorre ritirare i soldi dal conto corrente perché qui chissà come finisce. Allora io chiedo a voi esperti, certo capisco che la domanda, come dire, può avere dei ritorni da catastrofe planetaria, però via, affidiamoci al buon senso. Quanto sono sicuri i soldi depositati dagli italiani sui conti correnti bancari delle banche italiane? Una risposta, ci vuole una risposta immediata da Barcogliera. Sono sicuri anche perché sono protetti dal fondo interbancario di tutela dei depositi, fino a 100.000 euro per deposito e per depositante. Se l'obiettivo è quello di acquistare una casa tra qualche mese, va benissimo lasciare i soldi sul conto corrente. Ecco, anche perché cerchiamo di evitare di farci del male da soli. Se noi cominciamo a diffondere queste sensazioni che tutto è insicuro e tutti scappano, poi dopo l'effetto che si ha è quello che si teme, quindi sono profezie che si autoavverano. C'è una stabilità di fondo, c'è una solidità di fondo della realtà italiana, della realtà bancaria, della realtà economica, della realtà industriale. Ci sono dei problemi che possono essere superati, l'esperienza di altri paesi dimostrano che possono essere superati, cerchiamo di non aggravare questi problemi con divisioni interne, con polemiche, con interessi personali, ma cerchiamo di concentrarci attraverso l'interesse collettivo, che è quello di avere fiducia anche in chi opera in questo paese, in chi fa appunto l'operatore bancario, l'imprenditore, il finanziere. Laura da Udine, buongiorno. Buongiorno signor ex direttore, i miei omaggi. La ringrazio. Se fosse una donna le manderei dei fiori. Accettati lei lo stesso. È una persona squisita, tra parentesi questo, saluto tutti. Ascolti, io di economia ho un'infarinatura, però quello che sono certa è che da 3 anni, quasi 3 anni questa tempesta, la causa non è solo della destra, la causa è della sinistra, perché dovevano unirsi. Non continuare a dire a casa Berlusconi, a casa Berlusconi. In una grande famiglia, quando c'è la crisi, bisogna unirsi. Il male l'hanno fatto gli italiani. E io sono di destra moderata, ma se la sinistra fosse stata all'altezza della situazione, l'avrei ammirata. Hanno fatto male all'Italia. In tempo di guerra eravamo tutti uniti, questa è una guerra monetaria. No, io la ringrazio, ho finito, grazie. Grazie mille a lei per la sua testimonianza, indubbiamente. Il clima del dopoguerra, il clima della ricostruzione era un clima di unità di intenti, anche se allora ci sono state all'inizio un'unità, poi delle divisioni politiche anche forti, anche aspre, non dimentichiamolo, ma c'era soprattutto la volontà comune appunto di proseguire in un'opera di ricostruzione a cui tutti erano finalizzati. Molti messaggi tra gli ascoltatori al 349-238-6666 fanno proprio il punto di fondo sulla politica, ovviamente con una politica però molto separata. C'è chi dice il governo vada a casa e c'è chi dice appunto la sinistra non saprebbe fare peggio, meglio, anzi farebbe molto peggio. E quindi c'è una direi dai questi messaggi più una logica di divisione che non una logica di unità. Intanto qualcosa di meno negativo sta emergendo dai mercati. Milano riduce le perdite all'1,2%, forse è sbagliato guardare punto per punto l'andamento dei mercati, però comunque non c'è oggi una tendenza particolarmente negativa, c'è forse attesa per quanto potrà dire Berlusconi nel pomeriggio. Interventi concreti però sembra difficile che possano essere annunciati, almeno queste sono le prospettive. Alessandro Barbera, hai qualche notizia in più su quello che può dire Berlusconi? Berlusconi a quanto pare farà un discorso sostanzialmente di invito all'unità, chiederà all'opposizione collaborazione, forse avrebbe cominciato avrebbe potuto farlo prima, ma insomma questo farà e sostanzialmente predisporrà una sorta di piano d'azione che speriamo a questo punto sia rapido ed efficace su alcuni punti che sono essenzialmente punti che riguardano la crescita. Lo dicevo prima, riforma del mercato del lavoro, il governo vuole andare molto rapidamente alla riforma dello statuto dei lavoratori. A questo punto probabilmente c'è da chiedersi se non ci sarà anche la riforma articolo 18, qui naturalmente bisognerà scontrarsi certamente con il no della CGIL e il piano per il Sud. Per la verità questo concretamente avverrà oggi, questa mattina il CIPE si incontrerà per sbloccare circa 7 miliardi e mezzo di opere per il Sud. Sì, è già arrivata adesso la notizia, il CIPE ha dato il via libera al piano per il Sud, ne ha dato notizia il ministro Matteoli spiegando che il CIPE ha approvato il progetto della TAV Torino-Lione, io pensavo che fosse già stato approvato da tempo, i progetti definitivi della tangenziale esterna di Milano, il collegamento ferroviario Orte-Falconara e quindi infrastrutture per complessivi 9 miliardi. E questo vuol dire investimenti, finanziamenti, creazione di posti di lavoro. Barbera. Dicevo, questo è uno di quei casi in cui il governo si mostra rapido ed efficace solo nei momenti di emergenza. Questo certamente è un grosso neo di questo governo. Ci hanno messo quasi un anno per capire che sulle infrastrutture bisognava muoversi. Purtroppo devo dire da questo punto di vista non si può certamente non dire che la responsabilità non sia del Ministro dell'Economia, che ha in tutti i modi cercato di tenere in cascina più fino possibile senza rendersi conto che è vero ed è bene contenere il deficit ed essere ligi con l'Europa. È altrettanto vero che però i mercati per usare una battuta da strada, se ne fregano altamente di quello che dice l'Europa e pensano alla sostenibilità di lungo periodo di un debito. Un ascoltatore di prima ha fatto una osservazione secondo me molto esatta e molto acuta. Non si può credere che i paesi crescano sempre a prescindere. È vero, noi siamo un paese ad alto debito, altissimo debito, paghiamo tutti gli anni circa 70 miliardi di euro di interessi sul nostro debito pubblico. Dobbiamo o ridurre il debito o pensare di poter crescere. Non possiamo tenere un debito così alto senza costruire le condizioni della crescita, perché il risultato semplicemente è che teniamo sotto controllo il deficit, ma l'entità del debito è quella e in una situazione di crisi finanziaria strutturale europea e americana siamo i primi a pagarne il prezzo. Certo, il debito in sé non è un elemento negativo, indebitarsi è qualcosa anche di positivo, pensiamo a una famiglia che si indebita per comprare un'abitazione, però il debito deve essere sostenibile, l'onere del debito per gli interessi e per la restituzione del capitale non deve superare una certa soglia di reddito, un terzo, un quarto se si tratta di una famiglia, ma anche un paese può e deve indebitarsi per soprattutto per realizzare infrastrutture, per fare investimenti, ma questo debito deve essere sostenibile. Il debito italiano è sostenibile per la realtà economica dell'Italia, ma è sostenibile solo se il paese, tanto meglio se il paese cresce, se produce nuova ricchezza. Grazie, bentornati a Nove in Punto, ultimi 10 minuti del nostro programma dedicato oggi al debito pubblico, ai titoli di Stato, alla sicurezza dei risparmiatori, ma anche alle prospettive del Paese. Martino da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io in pratica volevo soltanto parlare dell'uomo qualunque che si ritrova con questi grossi problemi e non sa come affrontarli. Sostanzialmente sento parlare di patrimoniale, sento parlare di nuove tassazioni, eccetera, eccetera, va tutto bene. È giusto che noi contribuiamo al benessere dello Stato e cerchiamo di tirar fuori quello che possiamo fare, però io non ho mai sentito parlare i nostri governanti, che siano di destra, di sinistra, del centro, non so di dove, che vogliono ribassarsi il loro stipendio come quello dei parlamentari europei. Nessuno l'ha fatto, ha perso una grossa occasione anche la sinistra che poteva farlo e avrebbe conquistato la popolazione dicendo noi ci diminuiamo lo stipendio come gli europei. Invece no, abbiamo una classe politica che vuole continuare a mantenere i propri privilegi. La loro pensione non si tocca, si tocca a quelli dei poveri cristi, ma la loro non si chiama pensione, giustamente, è un appannaggio, quindi non deve essere toccato. Se vanno in pensione dal Consiglio Comunale al Consiglio Regionale, non so che cosa, hanno fatto una legislatura, hanno due pensioni, conservano la segreteria, conservano le auto blu. No, guardi, se continua così, purtroppo arriviamo alla fine della trasmissione. I privilegi sono talmente tanti che elencarli certamente è molto lungo, però il suo intervento è molto indicativo proprio di un malessere verso questa, quella che viene chiamata la casta della politica, che non riesce ad autoriformarsi. Tagliarsi gli stipendi è sempre qualcosa di antipatico, però basterebbe una piccola norma per ridurre a metà il numero dei parlamentari, perché ha dimostrato nell'approvazione della manovra qualche settimana fa come sia possibile varare dei provvedimenti anche in un paio di giorni, ma non si fa, e questa, la politica dovrebbe dare il buon esempio. Siamo d'accordo sul fatto che la politica non dà in questa fase il buon esempio. Parlo di politica con la P minuscola, perché abbraccia tutte le forze politiche. Vorrei però passare a alcune domande fatte con gli SMS, direi per Marco Riera. Quanto è sicuro il rimborso alla scadenza dei titoli di Stato? Marco Riera. Beh, fin tanto che l'Italia manterrà la sua solvibilità, sono sicuri. Io credo che il default dell'Italia sia un evento assai improbabile, anche perché, insisto, come insegna l'esperienza del 1992, in casi estremi sappiamo purtroppo, sto dando anche una cattiva notizia in questo momento, sappiamo purtroppo dove potranno andare a mettere le mani. Ecco, si parla anche di questa nuova tassa sul deposito dei titoli, è in qualche modo anch'essa una patrimoniale, Marco Riera? Sì, una piccola patrimoniale che è regressiva, quindi non è che va a colpire la capacità reddituale o la reale ricchezza degli individui, e tra l'altro è anche di non facile applicazione per tutto il sistema bancario, perché ci sono degli ostacoli non indifferenti di cui ha parlato il Sole 24 Ore molto in dettaglio in queste settimane. Non è una di quelle misure così fatte per ottenere gettito in modo semplice ed immediato, perché scarica sul sistema bancario una serie di adempimenti non indifferenti. C'è chi chiede se i depositi postali sono equiparati ai titoli di Stato. Sì, perché sono garantiti dallo Stato. Ma anche i titoli postali? I titoli postali diversi dai buoni postali, bisogna vedere qual è l'emittente. Se l'emittente è la Cassa Depositi e Prestiti, così come accade per i buoni postali, la garanzia è dello Stato italiano. Se invece si tratta di obbligazioni emesse da banche, come quelle che sono state collocate dalle Poste negli anni passati, della solvibilità risponde l'emittente, che appunto può essere una, di volta in volta, una banca italiana, una banca estera. Comunque tutto questo è documentato nella informativa che i risparmiatori dovrebbero aver attentamente letto prima di procedere alla sottoscrizione di uno di questi strumenti. Un'altra domanda: acquistare titoli di Stato tedeschi è facile allo stesso modo con cui si acquistano i titoli di Stato italiani? Sì, perché ce ne sono quotati sui mercati al dettaglio, come per esempio il MOT della borsa italiana. C'è qualche riflessione da fare sulla convenienza a acquistare titoli di Stato che danno dei rendimenti, proprio perché molto sicuri, considerati molto sicuri, più sicuri in questa situazione, sono rendimenti estremamente risicati. Quindi sul fronte dei rendimenti c'è poco da guadagnare. Un'altra domanda, ma qui forse bisognerebbe essere profeti: a questi prezzi sarebbe bene comprare in borsa? Sì, a condizione che i prezzi non scendano ulteriormente. Io direi di fare sempre una valutazione della propria propensione al rischio, della propria tolleranza alle perdite. Se stiamo parlando di investitori privati che hanno una bassa tolleranza alle perdite, credo che sia il caso di stare lontani dagli investimenti azionari, non solo adesso ma anche per il futuro. Grazie Marco Riera. Allora vorrei con Giacomo Vacciago dare uno sguardo un po' più complessivo, magari partendo dal fatto che se in borsa c'è chi vende e i prezzi li fa scendere, però c'è anche chi poi compra, e quindi qualcuno che considera il fatto che il rischio sia un'opportunità vuol dire che la fiducia non è del tutto dissolta, che c'è anche chi pensa che si possa andare aver raggiunto appunto dei livelli bassi e che quindi ci sia la possibilità di una crescita. Professor Vaciago. Ma diciamo che anzitutto agosto è un mese anomalo in cui succedono più cose negative che le positive, perché la gente positiva è al mare a riposarsi in un certo senso, e quindi io non vorrei drammatizzare mai le emergenze, salvo in Italia dove si dice che senza emergenze non si fanno neppure le cose utili. Io credo che si debba recuperare la capacità di condividere almeno la diagnosi sui problemi del Paese, perché il dramma degli ultimi 3 anni è che il governo ci consolava con la teoria che altri stanno peggio di noi, che è vera ma non mi consola affatto sapere che altri stanno peggio di noi. Quindi adesso rimbocchiamoci le maniche e ragioniamo, facendo finta di essere tedeschi per una volta, su come mettiamo a posto questo paese nei prossimi anni. Da quando siamo nell'euro sappiamo che la crescita te la dà l'emulazione con il meglio altrui. Cioè noi avremo bisogno di un governo che fa il giro d'Europa, magari cominciando da quelli governati dalla destra, penso all'Inghilterra, che triplica le tasse universitarie per le università migliori e presta soldi agli studenti che non li hanno per poterci andare alle università migliori. Beh, qualcuno lo spiega al nostro ministro Gelmini che così fa la destra nei paesi seri. O anche la Svezia, che adesso ha governi di destra, dà soldi il governo svedese alle scuole private migliori perché così competono e danno una mossa alle scuole statali, che hanno dormito 30 anni di sinistra al governo. Allora, emulare le virtù altrui. Noi nelle nostre imprese questo lo fanno tutti i giorni, la concorrenza le costringe. Il governo di cui abbiamo bisogno è un governo che con umiltà impara dal meglio dell'Europa, se vuole scelga i governi di destra se preferisce, e si mette in linea col resto d'Europa. Dopodiché, attenzione, la crisi odierna è anche colpa dei paesi peggiori di noi, che perché la Grecia e l'Irlanda e il Portogallo hanno imbrogliato, hanno fatto finta di essere tedeschi e non era vero. Però tu lo devi sapere che c'è contagio, non ti consola sapere che in famiglia c'è qualcuno che sta peggio di te, perché poi prima o poi te l'attacca. I rimedi alla Grecia, il fatto che adesso dal 21 luglio c'è scritto che in futuro le banche pagheranno per i prestiti fatti a governi, sono gran parte di questi problemi si sono riversati sulle nostre banche. Noi non abbiamo prestato soldi alla Grecia, ma ahimè le nostre banche sono piene di titoli di Stato italiano, quindi la percezione del rischio in base al nuovo accordo europeo nei confronti della Grecia vale anche per noi. Ecco, sì, siamo in una situazione in cui dobbiamo tener conto appunto delle difficoltà che hanno gli altri paesi, ma come giustamente dice il professor Vaciago, dobbiamo tener conto anche delle possibilità e delle opportunità che abbiamo nel copiare gli esempi positivi, gli esempi in cui si dà fiducia, si dà un premio al merito, un premio alla professionalità, alla capacità delle persone, in cui si dà appunto forza alla realtà più significativa, più capace di crescita del paese. Su questo ci fermiamo. Io ringrazio Giacomo Vaciago, docente di politica economica alla Cattolica di Milano, ringrazio Marco Riera, fondatore di You Invest, e Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, così come ringrazio Carmelo Aricella in regia e Giorgio De Luca, assistente alla diretta, e l'appuntamento è per domani, probabilmente parliamo ancora di economia dopo il discorso di oggi di Berlusconi. Grazie e arrivederci.